stai sempre in guardia perché intorno nemici ne hai, che stanno attenti a tutto quello che dici o che fai. Lo schifo che c'è in giro ti chiude il cervello. 30 denari preferisco nel cuore un coltello. Nel tuo cielo io ci marcirei. Non voglio credere né a santi né a te. Tradire ci vuole un minuto, ma per meritarsi il rispetto ci vuole una vita. Togliti quella maschera che ti veda in faccia, ti seguirò fino all'inferno, ti darò la caccia. Porti rispetto verso giacche, cravatte, Rolls Royce. Sei pronto a sacrificare tutti i compagni tuoi. Se continui solo la tua salita, è questo quello che vuoi dalla thank you.